известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. I said, can I speak with you? And he opened the door real quickly and he said, hi, Sergeant Crowley from the Cambridge Police Department, would you mind stepping out and talking to me? And my reason for non si è mica is... quietata la questione del intervento, del resto, insomma, interviene un presidente, difficile che le acque si calmino, insomma, l'incidente accaduto, ve ne abbiamo già parlato ieri, a Cambridge, nel quartiere intellettuale, per dire così, di Boston, Massachusetts, nei pressi della Università di Harvard, dove il molto molto titolato, molto rispettato professor Henry Louis Gates Jr., uno dei luminari della Università di Harvard, è stato arrestato mentre cercava di entrare a casa sua con tutti i mezzi, perché si era perso le chiavi. Qualcuno lo ha visto, è stata chiamata la polizia. La polizia è intervenuta. Il problema è che, come stava raccontando il sergente Crowley, l'autore dell'arresto in sottofondo, in apertura della puntata di oggi di Jefferson, Gates si è incavolato come una bestia e ha cominciato a urlare, agitato lo definisce il sergente in questione. Il fatto è che Gates, che è peraltro un noto, notissimo studioso della cosa razziale in America, l'ha buttata subito sulla faccenda razziale e ha detto ai poliziotti: ma perché mi state dando fastidio? Perché sono nero? E lì è cominciato un botta e risposta piuttosto alterato. Poi, come sapete o forse non sapete, quando negli Stati Uniti, nei rapporti con le autorità, si attiva una procedura, non la fermate neanche con una mina, con una bomba atomica, ovvero allorché i poliziotti sono entrati nella procedura di arresto, non c'è nulla che possa essere fatto per fermarli, bisogna seguirli, andare in questura, alla stazione di polizia e cercare di uscirne il più rapidamente possibile. Sicuramente non sono indicate frasi come quelle pronunciate da Gates, che ha detto: guarda che avevo appuntamento con tua madre, che è un po' una frase, come dire, da stadio. Insomma, è andata l'incontro, non è andato benissimo, però la sera nella conferenza stampa in prime time nazionale Obama ne ha parlato e ha definito stupido il modo in cui la polizia di Cambridge si sarebbe comportata arrestando il professore nero. Come vi abbiamo detto, la questione razziale è stata evitata per due anni di campagna elettorale da Barack Obama, è stata evitata anche con un certo imbarazzo all'inizio, all'insediamento alla Casa Bianca, allorché il suo neo ministro della giustizia lo chiamava a una maggiore responsabilità razziale. Lui ancora una volta ha buttato acqua sul fuoco. Poi, in modo piuttosto sorprendente, nel giorno in cui doveva resistere a degli indici di gradimento in calo e soprattutto alle turbulenze piuttosto forti della questione sanità, della riforma sanitaria che non sta prendendo per adesso la strada che il presidente voleva, ha tirato fuori dall'asso della manica, ha tirato proprio lui fuori la questione della razza. Però poi la polizia ha reagito e ha detto al presidente: ma come ti permetti di criticare in questo modo noi che siamo al servizio dei cittadini, come ti permetti di estrarre la carta razziale? Al che Obama, secondo me infilando la testa in un ginepraio, ha dovuto a sua volta reagire. You stirred up some controversy last night when you were asked about the arrest of Professor Gates of Harvard. And you were tough on the Cambridge. Ci sei andato giù pesante, gli dice il giornalista. Saying that the Cambridge police acted stupidly. You know, I have to say I'm surprised by the controversy surrounding my statement because I think it was a pretty. Lui fa l'ingenuo, dico: ma sono sorpreso da tutta questa agitazione attorno a quello che ho detto. Middle-aged man who uses a cane who's in his own home. Now, e come si fa sempre in questi casi, la mette su una questione di età, evita di nuovo la questione razziale, non dice quello che aveva adombrato, anzi detto il giorno prima, ovvero: in questo paese si arrestano con troppa facilità neri ed ispanici. vero macigno razziale, ma ha detto: ma come, quello è un professore, un uomo di mezza età. Sono rimasto sorpreso dal fatto che, nonostante le sue rimostranze, siano andati avanti e l'abbiano arrestato lo stesso, perché poi alla fine, caro Obama, così dicendo, giustifica ancora il vecchio adagio che i cattivi in linea massima sono giovani, e noi ti tiriamo le orecchie per questo. Però arriviamo invece alle notizie che contano, perché questa è invece appunto una controversia d'estate, credo destinata non a scatenare disordini razziali, ma semplicemente a far versare qualche riga d'inchiostro. Invece la questione grossa, quella che di riga d'inchiostro ne farà versare da qua alla fine dell'anno, credo, dei veri e propri fiumi, è la questione della sanità. Il capo del Senato, il democratico, molto democratico, Harry Reid, ha annunciato che non si voterà prima di settembre sulla questione sanitaria. Vi ricordo che Barack Obama avrebbe voluto vedere la riforma da lui proposta approvata prima del 8 agosto, giorno in cui le Camere americane vanno in vacanza, almeno da uno dei due rami del Parlamento, ma non sarà così. Reid ha detto che i democratici conservatori, quelli con un occhio ben attento alla cosa fiscale, i cosiddetti blue dogs, cani blu, vogliono più tempo per votare il test, di conseguenza per ora non garantiscono l'appoggio al progetto presidenziale, visto che i repubblicani ormai in blocco, alla faccia dell'idea bipartisan sventolata da Obama al suo esordio presidenziale, non ci pensano neanche a sostenere il progetto, per non andare incontro a quello che i giornali americani ormai definiscono una Waterloo. È piaciuto moltissimo agli americani rispolverare la sconfitta napoleonica. Evidentemente il molto improprio, secondo me, paragone Napoleone-Obama piace agli americani, ma insomma, per non andare incontro a un rovescio, si aspetterà settembre. Del resto Obama ha promesso la soluzione del problema entro il 2009 e quindi siamo ancora ampiamente nei termini. Ha detto: ci arriveremo come siamo arrivati sulla Luna, facendo il paragone con una questione sulle prime pagine dei giornali proprio in queste ore, ma ha detto anche altre cose che secondo me possono far riflettere gli americani, perché è pur vero che l'America middle class è spaventata dall'idea di dover sostenere una parte delle spese per questo ampliamento dell'assistenza sanitaria a tutti gli americani, compreso i 47 milioni che oggi non ne godono, ma su questo Obama insiste a dire che pagherà solo chi ha un budget delle entrate e degli introiti annuali superiori al milione di dollari. Ma ci sono anche altre questioni. Per esempio, questa assistenza di tipo più statalista, diciamo così, probabilmente priva gli americani di una serie di prerogative dell'assistenza privata che erano sicuramente più gratificanti. Questa sarà un po' più spartana, un po' più simile in fondo a quella ai sistemi europei, e per gli americani che erano ormai abituati a effettuare scarichi fiscali o comunque a veicolare attraverso l'assicurazione privata tutta una serie di spese sanitarie, ma tra virgolette, questo può essere un problema su cui riflettere. D'altro canto c'è anche un altro discorso che potrebbe invece spingere gli americani a votare in favore di questa riforma, a spingere gli americani della base a fare pressione sui propri rappresentanti a Washington, ed è la solita crisi, perché è pur vero che questa questione della sanità comporta nuovi costi, è pur vero che Obama dice che i nuovi costi che comunque la sanità produce sarebbero insostenibili, incontenibili, ma c'è un discorso di mobilità sociale assai importante, ovvero oggi 47 milioni di americani non hanno assistenza sanitaria, ma quanti sono i milioni di americani in mobilità sociale, ovvero quanti sono i milioni di americani che oggi hanno una assicurazione sanitaria ma domani o dopodomani potrebbero non averlo? Sono appunto milioni coloro che stanno perdendo questa prerogativa, perché la stanno perdendo insieme al posto di lavoro o insieme a degli introiti che non sono più robusti come erano in passato. Quindi sono scelte rischiose, ma sono scelte sulle quali convergono interessi di diversi gruppi sociali e sui quali alla fine è probabile che Obama troverà il modo di raccogliere un consenso sufficiente. Di fatto il problema è rimandato a settembre, e in questo modo è rimandato a settembre un po' anche la santificazione di questo presidente, oggi nel mirino dei giornali soprattutto per l'eccesso di promesse. Questo è il tema che oggi stanno cavalcando i media americani. Forse questa prima ondata di disillusione verso Barack Obama è dovuta al fatto che ne ha dette troppe, ne ha fatte troppe, ne ha fatte partire troppe. Bisogna decidere se questo è davvero un difetto o no, e forse ciascuno si può fare su questo una propria idea. Per il resto, Barack Obama, non a caso, sta aprendo anche un altro fronte. Erano le sue priorità: occupazione, sanità e educazione. Proprio il fronte dell'educazione è quello su cui sta cominciando a muovere le sue caselle. Sarà un altro tema di grandissimo interesse negli ultimi giorni di lavoro al Congresso e immediatamente alla riapertura. Premi per le scuole migliori, migliori stipendi agli insegnanti, opportunità educative spalmate in modo trasversale ed orizzontale. Certo, il solito interrogativo è chi paga. E infine un premio a Barack Obama arriva da un sondaggio condotto dal centro di ricerca indipendente Pew, rispettatissimo in America, condotto in 21 paesi. Il risultato è assai interessante e si va a collegare con qualcosa che diremo tra poco con il nostro ospite in studio di oggi, Saro Capozzoli, che già ci aspetta dall'altra parte del vetro, perché pare che oggi il 70% delle persone intervistate esprima una opinione positiva degli Stati Uniti, dopo che nel 2003 era stato toccato il fondo di questo dato dopo l'invasione americana dell'Iraq, e l'America era diventata il paese cattivo. Pensate, il 23% solo degli interrogati si esprimevano positivamente, davano un giudizio positivo, gradevole, piacevole, amichevole nei confronti degli Stati Uniti. Oggi siamo al 70%. Molti dicono che il merito sia proprio di questo presidente, ma naturalmente la palla rovente, no? Passa da uno all'altro. Se non è più nelle mani dell'America, se l'America non è più il cattivo del mondo, proveremo a capire tra un po' chi è diventato, no, il cattivo, naturalmente, tra virgolette, di questo pianeta del 2009. They never met, the singer and the swinger. She walked in, they walked around each other, fighting for the mirror and smiling. She was awkward, I was tongue-tied. She was goofy, and she aspired to perfection as a hipster. And she asked me, how should I wear my problem hair, my dirty, no good problem hair? She asked me, avevamo detto, no, che Crowley, il sergente di polizia di Cambridge, Massachusetts, Crowley si era incavolato. Beh, mentre facevamo il discorsetto di apertura, ecco che arriva la notizia che adesso Crowley minaccia di querelare il luminare di Harvard Henry Louis Gates, insomma, che lo avrebbe accusato di razzismo. Lo dice l'avvocato della gente, che nel frattempo è sceso in campo. Crowley nel frattempo fa il giro dei talk show e dei telegiornali americani, è diventato un personaggio, naturalmente poi a questo punto è messo anche un po' in contrapposizione Con Obama. Sullo sfondo c'è quella storiaccia nel Texas di un fronteggiamento tra Klan e tra Ku Klux Klan e Black Power, che, come dire, a forza di buttare poi i cerini, no, nelle sterpaglie, qualcosa prende fuoco. Noi siamo stati ottimisti, ma insomma la questione continua così a ribollire, e Crowley si sta godendo, se non altro, il suo quarto d'ora di celebrità. 360 gradi, news dai punti sensibili del pianeta. Vedi, arresti il professore e finisci in televisione. E poi ho l'impressione che sarà molto lunga questa storia, andrà avanti ancora molto. Speriamo soprattutto no. Sul piano mediatico. Cambio rapidissimo di scena, andiamo a Shanghai, che ormai è la città adottiva del nostro Saro Capozzoli, che tra poco prenderà il mio posto al microfono, perché da Shanghai sta per arrivare una piccola ma forse grande rivoluzione, come dire, politica ma forse anche culturale, di costume, persino sociale, della Cina, perché pare che la municipalità di Shanghai sia pronta ad incoraggiare attivamente le coppie che hanno un solo figlio ad avere un secondo figlio, quindi viene scardinato passare le serate in casa, esatto. Per dirle con un eufemismo, insomma. Diciamo che viene scardinato il clou della politica del figlio unico, che da 30 anni certo. Tiene banco in Cina, che ha avuto naturalmente con molti chiaroscuri l'effetto di ridurre la sovrappopolazione cinese, però insomma adesso c'è il problema opposto, cioè i cinesi sono preoccupati dell'invecchiamento della loro popolazione. Pensate che a Shanghai le ultime statistiche dicono che il 22% della popolazione, cioè circa 3 milioni di persone, hanno più di 60 anni, e la percentuale potrebbe arrivare al 34% nel 2020, quindi veramente una città vecchissima, di vecchie Shanghai, certo. Quindi per questo si cerca di correre ai ripari per tempo, e quindi si incoraggeranno attraverso naturalmente campagne di sensibilizzazione le famiglie cinesi, le famiglie di Shanghai in particolare, a fare il secondo figlio. Spesso Shanghai anticipa i tempi, anticipa le mode, le tendenze in Cina, è per molti versi la città più moderna del continente cinese. Vedremo se poi l'iniziativa di Shanghai verrà seguita dal resto. Ma poi fatelo Cina. Questo secondo figlio, guardate, ve lo dice uno che lo sa, crescere figlio unico è difficile. Mia è la testimonianza di chi se ne frega, ma insomma non è proprio granché. Ci sembra ormai di conoscerlo da sempre, è entrato a far parte della goccia cinese quotidiana il presidente costituzionale dell'Honduras, però purtroppo per lui estromesso, Manuel Zelaya, che a questo punto si è finalmente mosso, ha detto partiamo, ci siamo, per parecchi giorni. Adesso pare aver mantenuto la promessa, è arrivato nella località nicaraguense di Esteli, 245 km a nord di Managua, 80 km dalla frontiera del suo paese, e annuncia che intende rientrare nel Honduras per riassumere il mandato interrotto dal golpe del 28 giugno. Zelaya è partito dalla capitale del Nicaragua su una jeep bianca insieme al ministro degli esteri venezuelano Maduro, in testa a un convoglio di sostenitori e giornalisti. C'è anche il mitico comandante zero della rivoluzione sandinista contro Somoza. Si vedrà quale sarà l'accoglienza ad attenderlo. Piuttosto drammatica la dichiarazione che Manuel Zelaya ha fatto al momento di muovere: ha detto di temere per la propria vita, non ha remore a indicare il suo nemico numero uno, e ha detto come vi ho già fatto sapere, se dovesse capitarmi qualcosa il generale Romeo Vasquez Velasquez sarà il responsabile della mia morte. E il suo ritorno, dice, non è qualcosa che attenta alla stabilità del paese, vuole trattare, vuole confrontarsi, la situazione è fluida. Ieri abbiamo fatto un interessante collegamento con un italiano in Honduras, fluida ma stanca, come dire, Zelaya prova a forzare la mano, vedremo come finisce. E forse, Stefano, rimane fluida anche la situazione nello Xinjiang, altra regione remota nell'ovest. Fluida nel senso che è pieno d'acqua, abbiamo visto delle riprese inquietanti di allagamenti. Ebbene, insomma, dopo i disordini dell'inizio di luglio, ricordiamo che le stime ufficiali parlano di 197 morti e 1700 feriti in questa regione, con una forte minoranza musulmana, con anche delle spinte separatiste, che convive a fatica con la maggioranza Han. Ebbene, dopo ormai quasi un mese le notizie arrivano con il contagocce, l'ultima che circola da un po' di giorni è che comunque le autorità locali, quindi che fanno naturalmente riferimento al governo nazionale di Pechino, sono pronte a varare delle leggi speciali contro il separatismo, di fatto verranno inasprite le pene e poi ci sarà più mano libera per la polizia, quindi diciamo che gli scenari che si prefiggono non sono proprio dei più incoraggianti per quel che riguarda lo Xinjiang, dove peraltro rimane anche il mistero sugli arresti, perché secondo sempre le autorità locali gli uiguri arrestati sono 1400, mentre addirittura gli uiguri parlano di 20.000 persone finite in galera, quindi veramente la forbice è ampissima. E per concludere un aggiornamento sulla questione che, se mi permettete, classificherei annosa: Michael Jackson, non lo lasciano morire in pace, adesso è stato individuato un possibile cattivo, anzi cattivissimo, sarebbe questo dottor Conrad Murray, che poi era il dottore curante del re del pop. Hanno fatto nel suo ufficio del Texas una perquisizione approfondita, gli hanno portato via un paio di computer e poi i giornali americani strillano con grande rilevanza: molte pillole, ma è quello che vai nell'ufficio, nello studio del dottore, molte pillole finisci per trovare. Non ci sono per ora vere imputazioni, ma c'è il sospetto che questo dottore abbia spinto Michael Jackson su una strada pericolosa, addirittura talmente pericolosa da rimetterci la pelle, con troppa disinvoltura professionale. Di fatto la notizia, così facendo, resta viva. Le vendite continuano ad essere formidabili. Tutti i debiti, caro Emiliano, estinti, pagati, anche i tuoi ormai possono essere pagati. Buono sapersi. Gli incassi sono formidabili. La famiglia Jackson sta, come dire, monetizzando la morte. Ma si sa quanti hanno chiesto il biglietto dietro, no? Ancora del no, migliore dei concerti. Ma pochissimo. In ogni caso, la cosa straordinaria è la vendita di dischi, il ritorno di vendita di dischi e l'annuncio, la seconda vita di Michael Jackson. E l'annuncio da parte della Sony di questi DVD multipli con lo spettacolo che non abbiamo mai visto. Loro hanno registrato le prove, lo vedremo. E incasseranno comunque un sacco di soldi, un pochino così per Michael. Com'è finito? Ci dispiace. Come Monday night, the day of work is done. Tuesday morning looms, the gray of ordinary. Monday night, we're in a state of grace. 20 million boys are caught up in a paper chase. If the weekend promised much, then it failed to touch on a single count what I was hoping for. What I was hoping for. E dunque do il benvenuto a Sandro Capozzoli, fondatore e presidente di IESA, società di consulenza dedicata a chi vuole fare affari in Cina, ma anche amico e collaboratore praticamente dalle origini, dagli inizi di Jefferson, lungo quasi 3 anni di programmazione. Da 20 anni vive a Shanghai, poi si sposta su e giù con l'Italia, appunto per la sua professione, ma anche per la curiosità di osservare e raccontare. In questo ci ha dato e ci sta dando una grande mano. Ciao Sandro, benvenuto. Salve a tutti. Mi stavi poco prima di aprire il microfono accennando a questa notizia, un'altra delle notizie che spesso ti sorprendono, no? Come italiano che le riceve dall'Italia all'estero. La notizia apparsa oggi anche sul Corriere della Sera con un approfondimento relativa al giovane ricercatore indiano che deve lasciare una nostra istituzione d'eccellenza perché semplicemente gli è scaduto il visto, incappando quindi, no, in una tagliola delle nuove leggi italiane sull'immigrazione. Sì, la legge esiste da un po' di tempo, è la Bossi-Fini, certo. E questo è un qualcosa che mi ha colpito molto, ecco, perché vediamo paesi che fanno veramente carte false per poter avere laureati cinesi, un po' per farli venire a studiare, ma anche per farli venire a lavorare nelle proprie imprese. Vedo il Canada, l'Australia, gli Stati Uniti stessi, no? E noi adesso abbiamo questo caso che io ho visto il giornale oggi, certo, sono cascato, certo, sulla sedia. Un ricercatore laureato, stipendiato in Bocconi, che ha dovuto lasciare l'Italia perché non gli hanno rinnovato il visto. Adesso questo ricercatore sta sull'aereo, praticamente sta tornando in India, poi approderà a Sydney, dove lo hanno accolto a braccia aperte. Ecco, quindi, mentre se io fossi, io diciamo, un contadino del Zhejiang per un ricongiungimento familiare, un ristoratore cinese o posto in Italia. Ecco, certo. Quindi anche per questo non dobbiamo meravigliarci anche del livello, perché diciamo, la rigidità di una legge in questo caso fa sì che la legge non sia buona. No, c'è qualche problema, certo. Perché vedo che ci sono delle chi scappa, va via a un certo punto, non riesce a trovare un collocamento, c'è qualche meccanismo strano, però vedo che intanto ci sono migliaia e migliaia di persone, io non dico, non sono di basso livello, ma diciamo di una istruzione media, medio bassa, che riescono ad entrare in Italia. Abbiamo bisogno anche di queste, abbiamo bisogno degli operai, abbiamo bisogno anche di chi va a raccogliere i pomodori, però non accogliamo, non siamo uno Stato che riceve, accoglie, diciamo, chi ha le competenze e le conoscenze. Dunque, ieri ci sono, come sapete, i mondiali di nuoto, li stiamo seguendo tutti. Ieri abbiamo finalmente rotto la schiena alla Cina nella pallanuoto femminile, nel senso che per una volta, insomma, abbiamo superato questa nuova straordinaria potenza anche sportiva mondiale, che la Cina, 11-10 nella terza e ultima giornata del gruppo A, il torneo femminile di pallanuoto. I cinesi sono stati i veri padroni, dominatori e anche interessanti protagonisti questa prima settimana dei mondiali. Come osservavo in apertura, no, quando parlavo di come il testimone del cattivo del mondo o del prepotente del mondo possa in fondo passare di mano in mano, noi ci siamo accorti un po' guardando le gare di questi mondiali che sta un po' crescendo una certa insofferenza nei confronti della Cina, evidentemente nuovo padrone almeno in alcuni settori dell'eccellenza sportiva rappresentata da questi mondiali, e si rivedono cose che un tempo erano dedicate, non so, ai russi o agli stessi americani. Te ne sei accorto? Sì, è qualcosa che avverto, ecco, anche andando in giro per l'Italia, ma non solo per l'Italia. C'è un po' di sofferenza, è un fenomeno possibile. Diciamo che si ha paura di chi non si conosce, delle cose che si capiscono anche meno, e io dico, appunto, stando anche lì, a volte veramente ancora non riesco a capire i cinesi, no? Certo. Diciamo qualcosa che anche perché diciamo ci sono delle differenze sostanziali, il loro modo di vedere le cose, loro le ferie, per dire, non le vedono come un qualcosa di necessario. Certo. Ecco, noi quando vediamo, loro fanno questi grandi numeri anche perché non si fermano mai, e questo dà fastidio, perché io ho bisogno di riposare, perché loro non si riposano, vanno avanti. Ma c'è quella infelicità del lavoro che noi ben conosciamo in Italia, no? Quello spleen del lunedì mattina, no, che è così diffuso. Allora, vi dico una cosa, i miei dipendenti il sabato e domenica molto spesso fanno corsi di formazione, qualcuno fa probabilmente qualcosa che non so, probabilmente si industriano. Io so di una storia di un imprenditore napoletano che ha aperto una piccola fabbrica nel Guangdong, è stato 2-3 anni fa, e lui proprio, in agosto non voglio essere aperto, lì si lavora, no? Ha chiuso la fabbrica dando ferie a tutti quanti, pagate e diciamo retribuite, è tornato in fabrica, non c'erano più gli operai, perché si erano tutti andati a lavorare da qualche altra parte, quindi da qui si vede, certo. Per questo diciamo è un qualcosa, dovremmo cercare di capire anche come si sta facendo adesso, spero che poi anche in altri spazi, ovunque, che l'Italia, la stampa italiana, i media, no, parlino un po' di più di questo paese, ma parlando di cose veramente realmente esistenti, cioè rispettandone la diversità, vogliamo dire. Cerchiamo di capire la diversità, poi forse riusciremo anche a non avere più paura, ma ad allearci con loro. Dunque, Saro Capozzoli è stato protagonista un paio di giorni fa di una delle due puntate che abbiamo dedicato a queste turbolenze piuttosto sonore, piuttosto visibili, anche piuttosto pericolose, se me la passate, nel settore del turismo italiano. Di tanto in tanto ci possiamo occupare di cose di casa nostra, perché riguardano in realtà il mondo, un mondo che fatica un po' di più e forse sospira anche un po' di più a venirci a trovare, a venirci a visitare in qualità di turisti in Italia, perché la qualità dell'accoglienza è cambiata verso il basso, e alcuni episodi particolarmente opachi, particolarmente neri, sono finiti sulle prime pagine dei giornali, anche di quelli giapponesi, famosi turisti truffati in un ristorante romano. C'è finito anche qualcos'altro. A due giorni dalla denuncia del calo di visitatori nipponici in Italia a causa di servizi scadenti, la Asahi Shimbun, prestigioso quotidiano giapponese, dà ora ampio spazio a una lettera del nostro ministro del turismo. E mi piacerebbe, Michela Vittoria Brambilla, mi piacerebbe capire come una mossa di questo genere venga interpretata. Forse Sara ci può aiutare, da un popolo come i giapponesi. Una lettera indirizzata ai cari amici turisti del Giappone e di tutto il mondo, gli è stato dato grande spazio, evidenza nell'edizione del pomeriggio. C'è un appello ai due sfortunati turisti perché si rifacciano vivi, non sappiamo i loro indirizzi, chiamateci subito e fateci sapere. E il quotidiano giapponese, nella sua corrispondenza da Roma, riporta l'invito alla giovane coppia, perché insomma venga sanata questo guasto e si provi una ripartenza. Poi abbiamo avuto ospite anche il vice sindaco di Roma Cutrufo, che ha parlato poi di un decalogo, di un tentativo istituzionale di dare una specie di normativa di comportamento. Ma io mi fermo e dico a Saro, questa è la strada, lettere da parte dei ministri, decaloghi comunali? No, qui si cerca di creare il caso, no? Ma sì, è un particolarismo, è stato un caso sfortunato, si vuole rimediare. Il problema è che è un qualcosa di sistematico. Io ripeto quello che ho detto anche l'altro giorno: se questo problema è venuto, emerso addirittura sulla stampa giapponese con questa prepotenza, è perché è la punta di un iceberg, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Cioè, e sono molto riservati normalmente i giapponesi. Prima di arrivare a questo punto, a un punto di rottura, vuol dire che è successo qualcosa. Si sono incavolati. Sì, diciamo, è stato un elemento che ha fatto veramente. Ma succede ai giapponesi, succede anche agli italiani. Vi faccio un esempio, un po' te lo raccontavo. Io sono arrivato a Roma a Termini. Io non conosco Roma, scusate, oggi. Ecco, oggi proprio. Prendo il taxi, chiedo via del Viminale, certo. E io faccio un po' di 15 minuti, arrivo, 8 euro. Certo, no? Hai fatto una bella visita turistica di Roma. Mi sono reso conto, dopo che ho fatto l'incontro, sono uscito fuori, che ero lì a 400 metri dalla stazione Termini. Ed è successo a me. Scarsi, certo. Purtroppo, appunto, avessi conosciuto probabilmente, ecco, però immaginiamoci un po' un giapponese, un brasiliano, ma i cinesi, poi che malapena parlano un po' di, diciamo, anche di cinese, che sono del Canton, ecco, come possiamo andare avanti così? Perché mancano anche dei controlli. Quindi una corsa turistica, io lo ripeterei, sì. Una corsa turistica, sì. Termini Viminale, i romani, sì. Sanno, sì. Di che cosa si parla, forse anche molti visitatori, perché siamo nell'ordine delle poche, scarse centinaia di metri, pagata 8 euro, un quarto d'ora, sì. in macchina per un passeggero, sì. Peraltro italiano e anche, sì. Dall'aria non completamente, sì. Sproveduta, sì, sì. Come Saro. Ho visto la ricevuta, mi sono accorto alla fine che mancava il numero del taxi, non potevo far nulla, ecco. Se si va in qualsiasi altro paese c'è la macchinetta automatica che rimette la ricevuta con tutti i dati, non c'è il percorso però ci sono i chilometri e c'è il numero del taxi, uno ha la possibilità di reclamare. Ecco, se andiamo oltre i servizi di trasporti, se guardiamo proprio al grande progetto del turismo italiano in generale, vedo, io vivo molto negli alberghi italiani, no? Di tutti i livelli, no? Io vedo, ecco, mi è capitato, come a me, ma come anche ai miei clienti cinesi che vengono qui, a volte di non essere accolti come un cliente. È successo anche a me di arrivare in un albergo, un buon albergo, il 4 stelle, alle 8 di sera, e sono stato accolto, ecco, ne è arrivato un altro. Ecco, mi sono sentito veramente, scusate, me ne vado. Sta parlando di improvvisazione. Improvvisazione, insomma. Persone, e perché manca questa, io chiamo, rispetto ad altri paesi, in Cina come in Asia, chi viene lì si rende conto di come si viene accolto, anche nell'albergo 2 stelle. E c'è l'obbligo di avere un titolo di studio, cioè, per poter fare quel mestiere. C'è l'obbligo, non basta solo sapere le lingue. Bisogna. Senti, ma se io fossi il rappresentante, sono il Ministero del Turismo, e ti offrissi un contratto da consulente, magari riservato ai soli turisti cinesi, per evitare, no, dei clash psicologici, culturali e poi naturalmente anche economici con un pubblico di quel genere, quali sarebbero i primi provvedimenti che proveresti a proporre dall'alto, appunto, no, all'industria turistica italiana per rimontare? Generalmente le indicazioni anche in cinese, non solo come succede anche a Parigi, quando si atterra a Monaco con la Lufthansa, comunque in Germania, all'ingresso ci sono due hostess. Quindi utilizzo della lingua. Le lingue, perché indicazioni e sui menu scrivere anche in inglese almeno, non parliamo del cinese. E qui abbiamo questo problema. Negli alberghi cercare appunto di dare indicazioni anche in cinese, ma questo si fa le mappe in francese e in inglese, perché non in cinese? Dato che sono quelli che adesso continuano a viaggiare, c'è le previsioni, io penso al Ministero del Turismo lo sanno che cosa sono delle proiezioni, saranno i primi turisti al mondo nei prossimi 20 anni, ecco. Certo. si rischia di non farli atterrare, di non farli venire in Italia, ecco, andranno da qualche altra parte. Va bene, torniamo con Saro tra pochissimo, dopo un po' di musica al traffico. Just another Saturday, the boys are dressed up fine. Think I'll wait till 8:30 to dress myself divine. 10:30, I'm in rags, a slutty look accompanies my questionable gaze through the strobe light and the haze. Take an interest in me, why must I beg for a drink? To verbose you, come too close, sir, please step back and think. That's the trouble, flesh attracts the leery look. Rarely does the dream boy come along, he don't exist. A lover with the candor of a friend. I run away, they're playing a decent song at last. I think I'll have to dance with Cassie, cause the dream boy never asks. Shuffle to the left. Eccoci ancora qui con Saro Capozzoli a discutere di cosa cinese, ma poi di cosa globale, perché sappiamo bene come le due cose si finiscano per intrecciarsi. C'è una notizia che ricorre sui giornali, nelle agenzie di oggi, riguarda l'ennesima ammonizione rivolta al potere, al governo cinese in relazione alla questione climatica, e c'è anche una risposta piuttosto piccata. In sostanza l'ammonimento che arriva dalle Nazioni Unite è: dovete fare di più, avete visto anche il G8 ha sancito una volontà collettiva, e la Cina sembra sempre due passi indietro. La risposta della Cina sull'argomento comincia a essere, come dire, ripetitiva, è un po' sempre la stessa: noi stiamo percorrendo un nostro binario e non vorremmo pagare per gli errori degli altri. È più o meno così? Sì, certo. Diciamo che comunque si nascondono dietro un dito, perché si sono resi comunque conto del problema che è l'inquinamento, e vedo che hanno veramente adottato delle misure molto restrittive, no? Certo. Adesso per fare un impianto giù in Cina, noi abbiamo fatti diversi per i nostri clienti, così bisogna rispondere a dei requisiti strettissimi, no? Quindi c'è un controllo non solo per le aziende straniere. Qualche anno fa proporre negli impianti industriali anche l'impianto, per esempio, di trattamento acque era improponibile. Anzi, se lo si imponeva, lo prendevano, e perché non so, la Banca Mondiale, ad esempio, che finanziava il progetto, lo pretendeva, e lo tenevano giù, cioè non lo avviavano. Quindi certo, è cambiato completamente comunque la sensibilità. Certamente ci vuole un po' di tempo. E loro è una sensibilità, come dire, cinese, cioè ha un impianto, uno stile. No, perché si sono resi conto che l'inquinamento costa, perché vediamo i fiumi inquinati dal cianuro, certo, vediamo. Certo. Ecco, si sono resi conto del costo sociale, e le popolazioni cominciano a protestare, cosa che prima non. Fermiamoci un attimo, perché dobbiamo dare la linea a Dario Ricci, Mondiali di Roma, salto tuffi sincronizzato, è un momento cruciale, vero Dario? Sì, manca pochissimo all'ultimo tartuffo delle azzurre, Francesca Dall'Apè e Tania Cagnotto, che sono seconde dopo 4-5 tuffi finali. Adesso si sono appena tuffate le russe Pakalina e Pachakova in corsa fino all'ultimo per il podio, ma hanno fallito il quarto tuffo e ora stiamo aspettando il risultato del quinto tuffo. Poi toccherà proprio alle azzurre, poi alla coppia cinese Guo Jingping e Gu Mingxia, pure campionesse del mondo che sono avviate al successo. Allora, intanto, lotta per il podio apertissima, perché questo quinto tuffo delle russe è stato straordinario, 73-8 totale di 310-80 che porta le russe in testa davanti al Canada. Poi, quindi Russia in testa, Canada al secondo posto, ma adesso Tania Cagnotto e Francesca Dall'Apè sul trampolino. Qualche istante di silenzio perché serve la concentrazione per questo tipo di tuffo. E il mio silenzio è quello dell'intero foro italico. Stanno prendendo il giusto ritmo, eccole, preparano. Tuffo. Aspettiamo il responso dei giudici, ma quello che abbiamo visto con gli occhi e lo sentite anche dal boato del foro italico, sembra un tuffo da medaglia. Ricordiamo al momento la classifica: 310-80 per la Russia, 309-90 per il Canada. Ma adesso arriverà l'ultimo tuffo di Tania Cagnotto, Francesca Dall'Apè. Il risultato: partono da 241-40, 251-40, scusate. Ecco, stanno uscendo i voti della giuria, le due azzurre che si abbracciano, e adesso arriverà il voto definitivo. Eccole, prime, in testa, 329-70, ed è argento a meno di un clamoroso errore di Guo Jingjin e Gu Mingxia. La coppia, pensate, Guo Jingjin potrebbe ora conquistare il suo quinto titolo mondiale consecutivo. Ciaro Capozzoli, con cui stavate parlando, la conosce bene perché in Cina è chiamata la divina. Eccola questa coppia straordinaria, insieme tre titoli, perché Guo Jingjin ha saputo vincere anche senza Gu Mingxia. Eccola qua, arriva il loro oro, ma è argento per l'Italia e bronzo per la Russia, Pakalina Pozhiakova. Ebbene, applauso a Guo e Gu Mingxia, un grande applauso dal foro italico che si scioglie in un abbraccio clamoroso per Tania Cagnotto e Francesca Dall'Apè. È un argento storico quello che le due ragazze azzurre conquistano dal trampolino da 3 metri nel sincro. È argento, podio mondiale, Cina, medaglia d'oro, argento all'Italia, Tania Cagnotto, Francesca Dall'Apè e poi la Russia, Giulia Pagalina, Anastasia Pozhiakova. Detto al foro italico è tutto. Visto, come per fare il verso, no, a Paolo Conte, gli italiani che si incazzano, ci siamo, nel senso che alla fine quel colosso cinese che ci toglie, certo. No? Ma volevo aggiungere una cosa, ma ho sentito prestazione. Ho sentito un'intervista ultimamente di una nostra tuffatrice che si lamentava del fatto: sì, certo, bella cosa, sono brave, ma anche perché hanno 8 ore al giorno di tuffi a disposizione per 365 giorni all'anno, noi a malapena ce ne danno 2 a settimana, a volte 4, no? In Italia, quindi c'è un problema, quindi c'è, è difficile avere, diciamo, hanno preso la cosa sportiva, come diciamo, dire, sì. per il verso giusto, quindi, e con un impatto straordinario, non solo quantitativo, ma sì, altamente qualitativo. Saro, purtroppo siamo in coda al programma e al tuo gradito intervento. Solo un flash da Shanghai, cioè un Expo ormai assai vicina. Che aria tira in città? C'è una sensazione? Ci sono 8.000 cantieri aperti, ecco, per farvi capire, stanno rifacendo tutto, le fognature, di tutto, ecco, è un'occasione per rifare la città, ora ci sono 9... Quindi c'è anche una grande scommessa di visualità, sì, di presentazione, sì, al mondo. Tanti miliardi di euro di investimenti, ora ci sono 9 metropolitane, 3 anni fa ce ne stavano 3 e fra 2 anni ce ne saranno 13, quindi diciamo questi sono i preparativi. Questi sono i numeri di un'altra grande Expo, nel vero senso, sì, della parola, della Cina nel mondo. Grazie Saro, grazie per essere qui con noi. e anche grazie a lui potremo seguire questo evento. Questo è Jefferson 2, io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Emiliano Enrico, in regia Valerio Rocchetti a Roma, Fabio Cantadori a Milano. Jefferson 2 è radio24.it, la mail su Facebook, redazione Jefferson 2, Jefferson 2 Radio 24, Express Yourself. E replica a mezzanotte questa puntata, un eccellente weekend a tutti, vi auguriamo, e l'appuntamento lunedì dopo le 4 come sempre qui su Radio 24. A presto, state bene.